Questo capitolo dodicesimo, versetto 22 seguenti di Luca, ci dice una realtà che già conosciamo molto bene, ma che a mio parere meriterebbe di essere ricondotta alla sua origine, cioè che la vita vale più del cibo e quindi il corpo più del vestito, quindi non dobbiamo preoccuparci. E invece noi siamo creature così piccoline che ci cadiamo dentro continuamente. Ma il concetto, la realtà sapienziale che ci insegna qual è? Che in tutte le cose noi dobbiamo non guardare quello che cade sotto i nostri occhi appena, certamente, se no siamo persone svanite. Tuttavia essere capaci di andare a cercare quello che è più importante, che sta alla base. Vi faccio un esempio. Anche oggi o tutti i giorni a me capita di ascoltare persone che sono, fratelli e sorelle, che sono in discussione per le eredità. È una cosa micidiale, guardate. È una cosa che io trovo in tutti i paesi, che io trovo in tutte le famiglie, credenti, non credenti. Ecco, chi mi chiede un parere, io mi sforzo di dirgli: guarda, più che darti un parere concreto, tecnico, che forse anche non sono capace di darti, io ti invito a considerare cos'è più importante, ciò che sta alla base. Che sono almeno due cose. Primo, siamo fratelli. Secondo, tutto passa. Siamo qui magari a scannarci, andare in contenzioso che poi durerà 10 anni, 15 anni. Non è tanto per la spesa, tanto pagano gli altri, perché certamente perdiranno, mi diceva una parte. Ma non è quello. Il problema è che per 10 o 15 anni i vostri rapporti saranno avvelenati e dopo ancora peggio, perché queste sono cose che si continuano con i figli, sono cose che non fanno invitare al proprio matrimonio o dei propri figli i parenti, i fratelli, sono cose che incidono in maniera straordinaria. Ecco, questo brano di Vangelo mi dice: la vita vale più del cibo, il corpo vale più del vestito, i rapporti valgono più di qualche migliaio di euro, la vita eterna vale di più di un po' di benessere pagato a prezzo pesante, pagato con amarezza, pagato con angustia di cuore. O Spirito Santo, vieni con i tuoi doni, il dono della sapienza, dell'intelletto, del consiglio, insegnaci. Io trovo tantissima sapienza in una piccolissima frase, in un piccolissimo motto che amo tanto, non l'ho inventato io, è troppo bello. Dice: occuparci, sì. Preoccuparci, no.